Welcome Federico, the system is ready to jack in. Ed eccoci di nuovo a Medium, il podcast di Netrunner. Sono passati all'incirca 30 giorni dall'ultima volta che abbiamo fatto un podcast, diciamo, con il format normale, ovvero il podcast dedicato solamente alla corp o solamente al runner. Questo perché durante il mese di agosto, che solitamente è un mese molto tranquillo dal punto di vista delle uscite di nuovi giochi, per quanto riguarda invece Netrunner ha visto nascere la mega espansione Creation and Control, che ha effettivamente portato un vento fresco nel metagame di Netrunner. Andiamo quindi a vedere quali sono le nuove opzioni di deck building che ci aspettano. Qual è la carta che un po' si è distinta di Creation and Control per quanto riguarda questo mese? Ricordiamoci che c'è stato Gen Con, nel quale si è disputato praticamente il più grande torneo di Netrunner da quando è stato ristampato, e forse anche in assoluto. 250 partecipanti che si sono scontrati nell'arco di due giorni, e ha visto trionfare in questo torneo un mazzo un po' particolare, perché abbiamo visto da una parte Kate, che sarebbe stata fino a un mese fa diciamo la meno favorita, e invece dall'altra parte ancora un'ulteriore sorpresa, perché ha vinto Jinteki, che era veramente l'ultimo dei mazzi che ci saremmo aspettati. Quindi tante belle novità per quanto riguarda Netrunner in questo mese. Andiamoli un po' un attimo a valutare una dietro l'altra. Partiamo quindi con la rubrica del deck building. The personal workshop. Per quanto riguarda il deck building, oggi parliamo di un argomento un po' particolare, ovvero usare un full rig, quindi tre programmi, ognuno utile per rompere una tipologia di ice, oppure usare un unico programma, un'intelligenza artificiale, quindi un AI, che rompa qualsiasi tipologia di ice, chiaramente con i limiti che queste tipologie di programmi hanno. È un dibattito non particolarmente acceso, ovvero vediamo molti mazzi che sono orientati verso andare a creare un full rig, quindi un set di icebreaker capaci di rompere qualsiasi tipologia di ice in congiunzione, quindi in cooperazione fra di loro, in contrapposizione magari ad altri mazzi i quali preferiscono limitare l'uso di icebreaker a una sola tipologia che però rompa tutte le tipologie di ice. Chiaramente fino all'arrivo di Creation and Control abbiamo visto lo strapotere di Crypsis, il quale ha un limite notevole, cioè il fatto che bisogna mettere questo virus counter che ci prende via un click. Va bene Crypsis per la maggior parte delle situazioni di early game, anche fino al mid game, ma su late game, quando magari la corp è riuscita a creare un piccolo fortino di 2, 3, fino a 4 ice anche rezzati, chiaramente Crypsis accusa un po' il fatto di avere la necessità di rompere gli ice solo spendendo questo virus counter. D'altro canto Crypsis rompe qualsiasi cosa, quindi in early game è veramente pesante, anche perché rompe cose come icebreaker particolari che non hanno nessun tipo di connotazione fra code gate, barrier e sentry, tipo datamine. Abbiamo visto l'avvento di Darwin, quindi un icebreaker che sempre AI, che quindi rompe tutte quanti le tipologie di ice, il quale però chiaramente ha la limitazione di costare 2 per ogni subroutine che andiamo a rompere, e in più chiaramente dover accumulare questa sorta di scorta di virus per poter andare a rompere gli ice con forza più grande, in quanto anche lui non alza la sua forza spendendo crediti come fanno la maggior parte dei icebreaker non anarch. E qui arriva, diciamo, proprio il piatto forte di Creation and Control, che è Atman. Cioè, con l'avvento di Atman abbiamo un'ulteriore tipologia di icebreaker AI, il quale è capace di rompere le sabrutine in maniera molto efficiente, quindi al costo solo di uno, a patto che si rispetti questa sorta di limitazione che è data dal fatto che la forza di Atman deve combaciare esattamente con la forza dell'ice che sta rompendo. Quindi abbiamo visto durante il torneo in Gen Con l'utilizzo di Atman insieme a Data Sucker, quindi congiunturalmente a Data Sucker, per poter modificare la forza degli ice per incontrare quella di Atman e riuscire a rompere. Non mi sorprende affatto che effettivamente è una combo pazzesca che ci permette di ottimizzare e rompere svariati ice con pochissimi crediti, ma soprattutto con un solo click, cioè il click della run. Nel momento in cui dovevamo rompere tanti ice con Crypsis, avevamo bisogno di tanti click per poter mettere i virus e poi andare a fare la run. Quindi fino a 3 ice li andavamo a rompere, al quarto ice sarebbe stato un problema perché non avevamo il quinto click per poter fare la run. La stessa cosa al contrario invece, ecco, per Darwin il problema si poneva nel momento in cui Darwin, insomma, dà troppo controllo alla corp. La corp in qualsiasi momento è in grado di poter decidere che non entri più all'interno dei server con un bel purge, riabbassa fino a zero la forza di Darwin, e quindi con un'efficienza così bassa per rompere le sabroutine, cioè 2 invece che 1, chiaramente Darwin diventa la soluzione meno papabile per quanto riguarda gli icebreaker generalisti, cioè le intelligenze artificiali. Atman invece è riuscito a fare breccia subito nei deck, non a caso in 3 pair è presente all'interno del mazzo vincitore a Gen Con. Io personalmente credo che vedremo molto Atman e un po' meno Crypsis da qui in poi, anche perché insieme a Data Sucker è veramente devastante. Nel momento in cui cerchi di sfuggire dal fatto che Atman riesce a rompere tutto, ti viene giocato un secondo Atman a costo 0 che va a coprire tutti i possibili ice a costo basso che Atman non era in grado di andare a gestire. Quando invece rilanci verso l'alto e quindi rendi magari un po' antieconomico dal punto di vista dei counter di Data Sucker andare a rompere ice molto forzuti, chiaramente Atman può tornare con carte oppure nella terza copia sotto forma di un Atman molto potenziato, il quale si prende cura degli ice con forza molto elevata. Insomma, in generale secondo me vedremo un po' il periodo dei runner in cui si gioca solamente intelligenze artificiali piuttosto che icebreaker specifici per una tipologia di ice, a parte chiaramente Kit, la quale ha chiaramente un potere che chiede proprio icebreaker code gate all'interno del mazzo. Ascoltiamo quindi la seconda rubrica, cioè la carta del giorno. Gen, the card of the day. La carta del giorno è Professional Contact, una carta di cui ho già parlato anche la volta scorsa per quanto riguarda l'espansione Creation and Control. È una carta che effettivamente abbiamo tutti un po' sottovalutato, e quindi ne vorrei parlare proprio perché secondo me è invece una carta perno per un cambio un po' di paradigma del modo di giocare Shaper all'interno del metagame. Qui si tratta di riuscire a capire come mai Professional Contact viene valutata molto bene e in che modo sinergizza. Allora, in primis è una carta che costa molto. Dal momento in cui ce l'abbiamo a terra, tutte le nostre pescate ci danno credito e tutte le volte che avremmo voluto prendere credito riusciamo anche a pescare, quindi fondamentalmente ottimizziamo i nostri click. Qui si tratta di andare a capire in che modo sinergizza questa carta con le altre. La prima che ci viene in mente di carta con cui c'è una forte sinergia è Clone Chip. Ovvero, ci troviamo di fronte a una situazione nella quale vorremmo ottenere dei crediti. Lo facciamo attraverso anche Professional Contact, pescando delle carte. Questo ci aumenta la quantità di carte che abbiamo in mano, dobbiamo scartare e andiamo a mettere quindi nel cimitero proprio le carte che ci sono utili da poter recuperare attraverso Clone Chip. Vi ricordo che Clone Chip è non solo un hardware, ma costa anche molto meno di Self-Modifying Code, il quale invece richiede il costo di 2 e impegna anche 2 di memoria. Quindi sicuramente sinergizza molto con lui, ma andiamo a vedere anche come sinergizza con altre situazioni. Per esempio, abbiamo appena fatto una run nella quale ci hanno tirato, che ne so, alla fine ci siamo beccati uno snare. Il nostro obiettivo all'inizio del prossimo turno sarà quello di recuperare soldi e recuperare anche le carte. In questa maniera noi con, diciamo, 8 click riusciamo a recuperare 8 crediti ma anche 8 carte in mano, andando quindi a far girare il mazzo molto velocemente per poter avere in mano le carte che ci servono per ritornare subito in pista. Se avessimo fatto questa cosa pescando carta e attivando un Magnum Opus, per esempio, che costa la stessa quantità di soldi da mettere a terra, anche se poi è un programma invece che una risorsa, avremmo dovuto spendere più click. E quindi ecco, si tratta di una carta che ci dà una forte efficienza dal punto di vista del quello che rende per ogni click, dando alla pescata, che prima era semplicemente un click per una pescata, un valore economico maggiore, perché ci fa ottenere quel creditino in più che, accumulandosi tutte le volte che peschiamo, ci dà una notevole solidità. Non ho altro da dire, è una di quelle carte che effettivamente andrebbero giocate per capirne la sinergia con il proprio mazzo e capirne la forza e l'efficienza. Se lo volete provare, mi raccomando, usatelo magari in combinazione con Clone Chip o con qualcosa che vi faccia ripescare cose dalla pila degli scarti. In questa maniera massimizzate la spesa iniziale, che effettivamente è un po' alta, cioè 5 crediti. Guardiamo adesso quello che ci aspetta per il futuro. Quality time. Fresh new cards for your decks. Allora, dato che di opening moves parleremo magari insieme con Nyarlathotep, con Riccardo, Flatline e forse anche con Baralai, Francesco del Circolo Evolution, e direi che andiamo a parlare magari di carte che vedremo nelle prossime espansioni data pack. Oggi parliamo quindi di Reina Roja, lo pronuncio alla spagnola perché immagino che sia una da pronunciare in questa maniera, visto che è una parola che vuol dire regina rossa in spagnolo. Link 1 è un'identità Anar, immagine stupenda, direi super bella, 45 di mazzo e 15 di influenza. Identità Cyborg G-Mod, il costo di Rez del primo Ice che viene rezzato ogni turno è incrementato di 1, quindi tutti i nostri primi Ice che in un turno andiamo a rezzare costano 1 in più. Attenzione, questo vuol dire che se per qualsiasi motivo, anche nel turno della Corp, la Corp deve rezzare un Ice, probabilmente costa 1 in più. Su questo me ne devo accertare, però probabilmente è così. Reina Roja di suo ha già un'abilità molto interessante, quindi fa un Oxanadu permanente come abilità. Ha uno di Link, quindi già interessante anche da questo punto di vista, ma è la protagonista a tutti gli effetti del nuovo ciclo per quanto riguarda gli Anarch. Non a caso nella carta console vediamo che c'è lei vista da dietro che si gira, e tutte le carte Anarch girano intorno a quello che può essere il tema del gioco degli scacchi. non a caso ci sono queste nuove tipologie di icebreaker che si chiamano Caissa, la quale, da quello che dice lo sviluppatore di Netrunner, è la regina degli scacchi, quindi è la patrona degli scacchi. Reina Roja secondo me verrà giocata parecchio, non magari solo in virtù del suo potere, ma anche in virtù del fatto che con l'arrivo di Jackson Howard Noise va un po' in declino, e in più quindi se vuoi giocare Anarch puoi giocare Wizard o lei, ma lei sinergizza perfettamente con dei programmi che sono veramente interessanti. Rook, cioè la torre che sinergizza poi invece con Reina Roja, perché alza ulteriormente il costo di Reds per quanto riguarda gli Ice. Vedremo in futuro quindi l'avvento di questo mazzo, diciamo che è già stato chiamato con mazzo Caissa, perché vedrà tutte queste tipologie di mazzi di programmi Caissa al suo interno. Reina Roja ci piace molto, sia per quanto riguarda la grafica, sia per quanto riguarda anche l'abilità. Vediamo se riuscirà a trovare spazio nel mondo degli amanti degli Anarch. Sure gamble, the meta unveiled. Per quanto riguarda il metagame, abbiamo visto un notevole cambiamento di marcia, soprattutto sul lato runner. Per quanto riguarda le corp, la situazione è rimasta abbastanza invariata, cioè a Gen Con sono arrivati principalmente dei mazzi Tag and Bag oppure Fast Advance. Poi il fatto che abbia vinto un Jinteki non credo che influisca molto su quello che può essere il metagame, o perlomeno non dovrebbe farci riconsiderare Jinteki all'interno del metagame. Io l'ho vista la partita finale, ho ascoltato entrambe le interviste, sia al primo classificato sia al secondo. Il primo classificato secondo me è stato molto baciato dalla fortuna, il secondo classificato mi sembrava molto più solido dal punto di vista sia del deck che anche proprio della preparazione. Chiaramente poi sulle due singole partite che si vanno a disputare è sempre difficile fare un giudizio su quale mazzo fosse il più forte o il meno forte. Al contrario invece, ecco, come dicevo, dal punto di vista della corporazione, dei runner, abbiamo visto cambiare molto il metagame. Chiaramente l'uscita di Creation and Control dà molto più potere agli Shaper, l'arrivo di Atman che sinergizza molto bene con Data Sucker ha creato praticamente una nuova tipologia di mazzo Shaper, la quale è stata utilizzata insieme a Kate, che rimane ancora a tutti gli effetti l'identità più forte che c'è tra gli Shaper, andando a creare un mazzo molto forte, il quale molto velocemente riesce ad entrare subito all'interno di R&D, che chiaramente è la specialità degli Shaper. Prima, ecco, Kate era poco forte nel early game, quindi non aveva quei trick utili per poter entrare velocemente all'interno dei server. Ora con Clone Chip, Self-Modifying Code, Atman giocato bene, perché chiaramente va giocato con cognizione di causa, e un'altra serie di trick come possono essere per esempio Scavenge piuttosto che Asher, sicuramente, ecco, con questa serie di armi in più Shaper riesce a dominare laddove invece prima era secondo a un mazzo Gabriel o Andromeda, che avendo le carte blu, che sono a tutti gli effetti le carte più forti di questo gioco, non era nemmeno comparabile. Adesso con questo sorta di boost che ha ricevuto da Creation and Control, sicuramente abbiamo visto a Gen Con una notevole presenza di Shaper, che se poi sarà anche un po' ridimensionata in virtù del fatto che l'arrivo di Creation and Control ti invita a magari sperimentare dei deck nuovi, vai al torneo magari senza l'obiettivo di fare top 8 e quindi ti porti il mazzo sperimentale per poter fare delle partite e provarlo, quindi probabilmente dal punto di vista statistico ci sono stati molti più Shaper di quanti ce ne sarebbero dovuti essere, però sicuramente Shaper torna in voga. Sono interessato molto anche al mazzo Kit, perché secondo me ancora deve vedere la sua massima espressione, la sua massima potenza, vediamo se magari con i nuovi data pack potrà ottenere qualcosina in più per poter raggiungere quello che è il mazzo Kate, che con Atman e Data Sucker e varie altre combinazioni di carte per ora sembra essere l'unico mazzo Shaper in grado di essere una valida alternativa a Criminal. Per oggi è tutto, vi invito ad ascoltare la puntata numero 6 dedicata alla Corp che pubblicherò da qui a pochi giorni. Nel frattempo mi raccomando, playtestate, perché arriva l'inverno e con l'inverno arrivano i Friday night e i tornei locali e bisogna essere molto preparati. Ciao! I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.